Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. All'epoca il servizio militare era obbligatorio. E per i giovani borghesi come me, che non volevano diventare una spina né un allievo ufficiale di complemento, c'erano due soluzioni: farsi riformare o andare all'estero con un progetto di cooperazione internazionale. Dopo l'università ho optato per la cooperazione. Sono stato nominato professore presso il Centro Culturale Francese di Surabaya, un porto industriale sulla punta orientale di Giava, dove Conrad ha ambientato il romanzo Vittoria e il cui esotico nome ha ispirato a Brecht e a Kurzweil la canzone Surabaya Johnny. Il centro culturale si trovava in una bella residenza olandese, teatro durante l'occupazione giapponese di interrogatori molto duri, qualcosa di simile da noi alla sede della Gestapo in Rue Lauriston. Quel luogo aveva visto atrocità tali da giustificarne la nomea di casa abitata dagli spiriti. Due volte all'anno veniva l'esorcista ed era assai difficile trovare qualcuno disposto a fare da guardiano, ma a parte questo il giardino era un incanto. Insegnavo il francese a signore della buona società cinese che avevano figli ormai grandi e si annoiavano un po'. Per loro frequentare quelle lezioni faceva parte del bon ton come il bridge. Traducevamo articoli di Vogue su Catherine Deneuve e Yves Saint Laurent. Mi trovavano simpatico, credo. Poco dopo il mio arrivo mi ha raggiunto Muriel. Facevamo lunghi giri in moto. Il brulichio dell'Asia, gli odori dell'Asia ci inebriavano e proprio a Surabaya, ispirato dalle nostre esperienze con i funghi allucinogeni, ho cominciato il mio primo romanzo. In quegli anni il genere primo romanzo di un cooperante si era ritagliato un suo piccolo spazio. Ogni autunno ne venivano pubblicati 3 o 4. Un ragazzo dei quartieri bene, che nutriva vaghi sogni letterari, si ritrovava per 2 anni in Brasile, in Malesia o nello Zaire, lontano dalla famiglia e dagli amici, si prendeva per un avventuriero e raccontava la propria avventura, romanzandola più o meno, per quanto mi riguarda, più anziché meno. Appena avevo qualche giorno libero, io e Muriel andavamo a Bali, che ci attirava non tanto per lo stile di vita dei balinesi, feste popolari, musica tradizionale, riti ancestrali, quanto per quello degli occidentali che si erano stabiliti nei lodges di Kuta Beach e di Legian, surf, magic mushrooms e feste in spiaggia alla luce delle torce. Quella società edonistica e cool era divisa in caste. Oltre alla plebe dei turisti di passaggio con macchina fotografica al collo, che non degnavamo nemmeno di uno sguardo, c'erano i giramondo squattrinati, ossessionati dall'idea di non farsi raggirare e di pagare ogni cosa al suo giusto prezzo. I surfisti australiani, tipi senza complicazioni, che bevevano birra, ascoltavano hard rock e si vedevano spesso in compagnia di belle ragazze. E infine l'aristocrazia. Quelli che io e Muriel chiamavamo fricchettoni chic e a cui sognavamo di somigliare. Affittavano per la bella stagione case in legno sulla spiaggia. Venivano da Goa, ripartivano per Formentera. Portavano abiti di lino e seta più raffinati di quelli in vendita nei negozi del paese e con cui si agghindavano i turisti. La loro erba era migliore e la loro scioltezza più naturale. Praticavano lo yoga, si dedicavano ad affari che non sembravano mai urgenti. Le entrate che permettevano loro di condurre quella vita meravigliosamente sventata provenivano da traffici su cui erano evasivi. Droga per i più temerari. E temerari dovevano esserlo davvero, perché in Indonesia rischiavano l'ergastolo, da scontare in prigioni spaventose o addirittura l'impiccagione. Pietre preziose, mobili, tessuti per i pesci più piccoli. Con la sua bellezza e la sua simpatia, Muriel è stata ben presto adottata da quell'ambiente in cui sapevo bene che senza di lei non avrei mai messo piede. Ero geloso e ho iniziato a ostentare disprezzo per quello che in realtà invidiavo. Così i nostri rapporti hanno cominciato a inclinarsi. Ciò nonostante, più restavamo a Bali e frequentavamo i fricchettoni chic, meno avevamo voglia di tornare a Parigi alla scadenza fissata per riprendere gli studi o cercare lavoro. Nelle giornate buone mi vedevo a scrivere sulla terrazza di una casa di bambù in riva al mare, a torso nudo, con un sarong stretto in vita. Aspiravo una boccata della canna che mi aveva passato Muriel prima di scendere a fare il bagno. La guardavo mentre si allontanava, ancheggiando sulla spiaggia, bionda, abbronzata, stupenda, e pensavo che quella vita faceva davvero per noi. Così abbiamo cercato il modo di prolungarla e per cominciare ci siamo mossi con prudenza. Nei negozi di Kuta si trovavano bikini di qualità scadente ma piuttosto carini, in tessuti di fili dorati. Da diversi produttori abbiamo saputo che costavano $1 l'uno e, secondo Muriel, si potevano rivendere a Parigi a un prezzo 10 volte superiore. Sicché abbiamo investito tutto il denaro che avevamo, più l'indennità che spetta ai cooperanti al termine dei 2 anni, per ordinare 5.000 costumi da bagno, da spedire in Francia a spese del Ministero degli Esteri, che sarebbero serviti per mettere in moto l'ingranaggio grazie al quale io e Muriel avremmo vissuto tra Parigi e Bali, soprattutto Bali. La faccio breve. Quando il produttore mi ha consegnato gli scatoloni, Muriel mi aveva lasciato da 1 mese per un fricchettone più vecchio, più sicuro di sé, più cool, con il quale, da quel ragazzo tormentato e sempre più odioso che ero, non reggevo minimamente il confronto. E così, dopo aver sognato di mollare gli ormeggi e vivere una vita avventurosa, ero tornato a Parigi solo, infelice, portandomi dietro il manoscritto di un romanzo che raccontava una meravigliosa storia d'amore e 5.000 costumi da bagno in tessuti di fili dorati che rievocavano la fine di quell'amore e, pensavo, della mia stessa vita. Ho un ricordo spaventoso dell'inverno successivo al mio rientro. Non sono mai stato grasso, ma il caldo dei tropici mi aveva fatto perdere 10 chili e ciò che laggiù poteva essere scambiata per elegante snellezza asiatica diventava, nel grigiore parigino, una magrezza da fantasma o da malato grave. Lo spazio che mi era stato concesso sulla terra si era ristretto. Per strada la gente mi urtava senza vedermi e io avevo paura che finissero per camminarmi direttamente sopra. Nel monolocale in cui abitavo c'erano un materasso steso sul pavimento, qualche sedia e, come tavoli, le 2 casse contenenti i costumi da bagno. Quando veniva a trovarmi una ragazza, la invitavo a servirsi, a prenderne 5, 10, quanti ne voleva. I costumi riscuotevano scarso successo, non ricordo nemmeno più come e quando me ne sono sbarazzato. Il mio romanzo ormai mi ispirava solo disgusto. L'ho spedito comunque ad alcuni editori, le cui lettere di rifiuto hanno scandito l'inverno. Avevo sognato che il trionfo dello scrittore avrebbe vendicato l'insuccesso dell'avventuriero e dell'amante, ma evidentemente avevano fatto fiasco tutti e tre. Due anni prima, invece, era toccato a mia madre diventare famosa. Su richiesta di un editore intelligente, lei, che fino a quel momento era stata un'accademica stimata solo dai colleghi, aveva sintetizzato le ricerche che conduceva fin dall'inizio della sua carriera in un libro che si era trasformato rapidamente in un bestseller. All'epoca, la tesi di esplosione di un impero era innovativa e coraggiosa. «È un errore», diceva mia madre, identificare la Russia con l'URSS. L'URSS è un mosaico di popolazioni che convivono alla meno peggio e in cui le minoranze etniche, linguistiche e religiose, soprattutto musulmane, sono così numerose, così veloci nel riprodursi e così insoddisfatte della propria condizione che finiranno con il tempo per diventare la maggioranza, rappresentando quindi una minaccia per l'egemonia russa. Di conseguenza è un errore non meno grave credere, come credevano tutti o quasi nel 1978, che l'impero sovietico rimarrà al suo posto ancora per diverse generazioni. L'URSS è fragile, sosteneva mia madre, corrosa dalle identità nazionali come da termiti, ed è probabile che finirà per crollare. L'URSS non è crollata affatto a quel modo, ma il nuovo decennio ha confermato comunque le intuizioni di mia madre, che è stata elevata al rango di oracolo, posizione che lei in seguito ha accuratamente evitato di mettere a repentaglio con profezie avventate. Esplosione di un impero ha destato abbastanza scalpore da meritarsi un articolo sulla prima pagina della Pravda, nella quale la tristemente nota Hélène Carrère-Dancos veniva denunciata quale ispiratrice di una nuova forma e particolarmente perniciosa di anticomunismo. Ciò non toglie che l'anno successivo mia madre si sia recata a Mosca e abbia incontrato l'autore dell'articolo, uno storico, al quale brillavano gli occhi allorché le ha chiesto: «Ha con sé il libro? No? Che peccato, mi sarebbe tanto piaciuto leggerlo, dicono che sia un ottimo lavoro». A riprova del fatto che quei tempi di brezhnevismo crepuscolare erano diventati decisamente vegetariani. Come esperta ormai indiscussa dell'Unione Sovietica, mia madre ha iniziato a ricevere tutto ciò che riguardava quel paese da vicino o da lontano. Così è successo che una domenica di quel crudele inverno, in cui ero a pranzo dai miei genitori, spulciando la pila degli ultimi arrivi, mi sono imbattuto in un libro dal titolo intrigante: «Il poeta russo preferisce i grandi negri». La pagina di guardia recava una dedica, dalla grafia incerta perché poco avvezza all'alfabeto latino, a Carrère-Dancos dal Johnny Rotten della letteratura. Nonostante il mio malumore allora cronico, ho sorriso al pensiero che di certo l'autore di quella dedica non sapeva chi fosse quel Carrère-Dancos a cui l'editore lo aveva costretto a spedire il libro più di quanto mia madre sapesse chi era Johnny Rotten. Le ho chiesto se l'aveva letto. Lei ha risposto con un'alzata di spalle: «Soltanto sfogliato. È noioso e pornografico». Due vocaboli che nella nostra famiglia sono considerati sinonimi. Mi sono portato via il libro. Non l'ho trovato noioso, tutt'altro, ma mi ha fatto male e non era quello di cui avevo bisogno. La mia ambizione era diventare un grande scrittore, ma mi sentivo lontano anni luce dal realizzarla e il talento altrui mi oltraggiava. I classici grandi defunti passi ancora, ma quelli che avevano solo pochi anni più di me. Dato che si trattava di Limonov, la prima cosa che mi ha colpito non è stato il suo talento di scrittore. Poiché il dio della mia gioventù era Nabokov, e solo con il tempo sono arrivato ad amare la prosa sincera e diretta, devo avere pensato che lo stile del poeta russo fosse un po' corrivo. Quel che raccontava, ossia la sua vita, mi impressionava più del modo in cui la raccontava. Che vita, che energia. Quell'energia purtroppo, anziché stimolarmi, mi faceva sprofondare sempre di più, pagina dopo pagina, nella depressione e nell'odio per me stesso. Più leggevo e più mi sembrava di essere fatto di una materia sbiadita e mediocre e di essere destinato a recitare nel mondo la parte della comparsa. Una comparsa amareggiata e invidiosa che sogna ruoli da protagonista ben sapendo che non li avrà mai perché le mancano il carisma, la generosità, il coraggio, tutto, tranne la spaventosa lucidità dei falliti. Avrei potuto consolarmi pensando che anche Limonov aveva provato quello che provavo io, che anche lui divideva l'umanità, come facevo io all'epoca, in forti e deboli, vincitori e vinti, VIP e plebaglia, che anche lui viveva attanagliato dall'angoscia di appartenere alla seconda categoria e che proprio quell'angoscia, espressa in modo così crudo, era la forza del suo libro. Ma queste cose non le vedevo. Vedevo soltanto che lui era un avventuriero e anche uno scrittore pubblicato, mentre io non ero e non sarei mai stato né l'uno né l'altro. E l'unica e grottesca avventura della mia vita si era conclusa con un manoscritto che non interessava nessuno e due casse piene di ridicoli costumi da bagno. Tornato dall'Indonesia, ho trovato impiego come critico cinematografico. Un editore che aveva notato i miei articoli e intendeva avviare una collana di monografie sui registi contemporanei, mi ha proposto di scriverne una su chi mi pareva e io ho scelto Werner Herzog. Ammiravo i suoi film, che all'epoca avevano un enorme successo, ma soprattutto lui. Herzog aveva lavorato in fabbrica per autofinanziarsi senza perdere tempo a convincere questo o quello documentari estatici che mostravano sopravvissuti a catastrofi, esclusi, miraggi. In Aguirre, furore di Dio, aveva domato la foresta amazzonica e la follia dell'attore protagonista, Klaus Kinski. Aveva attraversato l'Europa a piedi, in pieno inverno e in linea retta, per impedire la morte di portarsi via un'anziana signora, Lotte Eisner, che era la memoria del cinema tedesco. Possente, fisico, intenso, assolutamente estraneo allo spirito frivolo e ironico che era la specialità di noi parigini dei primi anni Ottanta, andava per la sua strada senza fermarsi davanti a niente, sfidando la natura, quartando all'occorrenza l'indole di qualcuno, senza farsi condizionare dalla prudenza o dagli scrupoli di quanti stentavano a tenergli dietro. Con lui, il cinema assumeva una dimensione diversa dalle chiacchiere da caffè filmate dagli studenti usciti dall'IDEC. Insomma, ammiravo Herzog come fosse un superuomo e di conseguenza, secondo uno schema che da qualche pagina dovrebbe essere chiaro, ero ancora più avvilito di non essere io stesso un superuomo. Ho toccato l'apice dell'avvilimento quando, subito dopo la pubblicazione del mio libro, il settimanale Telerama mi ha inviato al Festival di Cannes per intervistare Herzog, che presentava il suo ultimo film, Fitzcarraldo. Ai miei amici sembrava una fortuna poter andare a Cannes. A me è sembrata una cosa atroce, il teatro di una continua umiliazione. Giornalista freelance, agli esordi e senza conoscenze, occupavo uno dei gradini più bassi della scala che dalle celebrità volteggianti nell'Empireo scende fino al popolo bue, accalcato dietro le transenne per intravedere le star e, con un po' di fortuna, farsi fotografare con loro. Appena sopra il popolo bue, ma senza l'ingenuità che permette a questo, in fondo, di essere contento del proprio destino, ero fornito di un badge che mi consentiva di assistere alle proiezioni più scomode, la plebaglia della plebaglia. Per il giorno della presentazione in concorso di Fitzcarraldo, al mio editore è venuta l'idea di organizzare nel palazzo del festival, al termine della proiezione, una vendita di copie autografate del mio libro. Mi sono dunque ritrovato dietro un banchetto pieno di copie del libro, in attesa dei clienti, come in seguito mi è capitato spesso nelle librerie o nei saloni, in una situazione che può essere una rude prova, e nel mio battesimo del fuoco l'ho sperimentata nella sua versione più crudele. Poiché chi esce da una proiezione a Cannes è bombardato per tutto il giorno da materiale che non sa più dove mettere, rassegne stampa, libri fotografici, curricula vitae e brochure di ogni tipo, e non lo sfiora minimamente l'idea di comprare qualcosa di stampato. Per lo più i potenziali clienti che passavano davanti al mio banchetto neanche si accorgevano di me, tranne qualcuno che, con il gesto automatico e svogliato con cui al passaggio del vassoio l'imbucato a una festa prende una coppa di champagne perché è gratis, si portava via una copia del libro e mentre si allontanava cercava già con lo sguardo un cestino per liberarsene, come si fa con un volantino elettorale accettato per vigliaccheria o per buona educazione. E io ero costretto a rincorrerlo per spiegargli con tono di scuse che in realtà quel libro era in vendita. Ma questa prova non è stata nulla al confronto dell'intervista con Herzog. Tramite il suo addetto stampa, la vigilia dell'incontro gli avevo fatto avere il mio libro. Sapevo che Herzog non leggeva il francese e quindi non mi aspettavo chissà quali commenti, ma almeno che ricevesse un ragazzo che aveva passato un anno a scrivere un saggio sui suoi film con un po' più di calore di quello riservato ai giornalisti scafati, a cui, a blocchi di tre quarti d'ora a testa, dedicava l'intera giornata. Mi ha aperto lui stesso la porta della sua suite al Carlton. Indossava una informe maglietta a maniche corte, un paio di pantaloni da lavoro e pesanti scarponi da trekking. Sembrava appena uscito dalla sua tenda al campo base dell'Everest sotto una tempesta e naturalmente non sorrideva. Tutto in regola. Io invece sorridevo pure troppo. Temevo che l'addetto stampa non lo avesse avvertito e che Herzog mi scambiasse per uno dei soliti giornalisti. Ma quando ci siamo seduti ho visto il mio libro sul tavolino e ho farfugliato in inglese qualcosa come «Ah, gliel'hanno dato! So che non può leggerlo, ma...» Mi sono fermato, sperando che continuasse lui. Mi ha guardato un istante in silenzio, con l'aria saggia e severa che immaginiamo avessero Martin Heidegger o Meister Eckhart. Poi con una voce molto bassa e allo stesso tempo dolcissima, una voce assolutamente magnifica, ha detto, ricordo le sue esatte parole, «I prefer we don't talk about that. I know it's bullshit. Let's work. Let's work». Voleva dire facciamo l'intervista, mi tocca, fa parte delle rotture inevitabili, come le zanzare in Amazzonia. Ero così timido e stupito che invece di cosa? Di alzarmi e andarmene? di dargli un pugno? Quale sarebbe stata la reazione adeguata? Ho acceso il registratore e gli ho rivolto la prima domanda che mi ero preparato. Lui ha risposto, come alle seguenti, in modo molto professionale. Un ultimo episodio prima di ritornare a Limonov. Siamo nel settembre del 1973 e i protagonisti sono Sakharov e la moglie, Yelena Bonner, in vacanza per qualche giorno sul Mar Nero. In spiaggia, un tizio rivolge loro la parola. Si presenta come un accademico e dice a Sakharov che lo ammira, non solo come scienziato, ma anche come cittadino, perché rende onore al paese, eccetera. Sakharov lo ringrazia, commosso. Due giorni dopo, la Pravda pubblica un lungo articolo in cui 40 accademici denunciano Sakharov, con il risultato che Sakharov sarà confinato per 15 anni a Gorky. Tra i firmatari c'è il tizio che si è rivolto a lui e a sua moglie con tanta cordialità. Quando Yelena Bonner lo viene a sapere, prorompe in imprecazioni. Quello è proprio l'ultimo dei farabutti. Il testimone che riferisce l'episodio si stupisce che Sakharov non sia né indignato né irritato. Ma Sakharov riflette. Esamina il problema da scienziato. La condotta dell'accademico gli appare, più ancora che ripugnante, incomprensibile. Ignoro se Sakharov abbia trovato una spiegazione. O forse la spiegazione, direbbe Alexander Zinoviev, è la società sovietica nel suo insieme. Per quanto mi riguarda, ne cerco una al comportamento di Herzog. Che soddisfazione poteva dargli offendere gratuitamente, pacatamente, un ragazzo che si presentava da lui esprimendogli tutta la sua ammirazione? Herzog non aveva letto il libro, ma anche ammettendo che fosse brutto, la questione non cambia. Mi dispiace riferire un aspetto così antipatico di un uomo che nonostante tutto ammiro e le cui opere recenti mi inducono a credere che non farebbe più una cosa del genere e sarebbe anzi molto sorpreso se qualcuno gli ricordasse quella storia. Eppure è una storia che ha un significato, sia per me che per lui. Un amico a cui ho raccontato la mia disavventura mi ha detto ridendo: così impari ad ammirare i fascisti. Un giudizio drastico e, penso, motivato. Herzog, che pure era capace di provare una fervida compassione per un aborigeno sordomuto o un vagabondo schizofrenico, considerava un giovane cinefilo con gli occhiali una cimice che meritava di essere moralmente schiacciata, e io ero il candidato ideale a quel trattamento. Mi sembra che qui sia in gioco qualcosa che costituisce il centro nodale del fascismo. Che cosa troviamo se questo centro lo mettiamo a nudo? A voler essere radicali, una visione del mondo indiscutibilmente scandalosa. Übermenschen e Untermenschen, ariani ed ebrei, d'accordo, ma non è di questo che voglio parlare. Non voglio parlare né di neonazisti né di sterminio dei presunti esseri inferiori e nemmeno del disprezzo esibito con la ruvida franchezza di un Werner Herzog, ma del modo in cui ciascuno di noi si rassegna al fatto ovvio che la vita è ingiusta e gli uomini non sono uguali, più o meno belli, più o meno dotati, più o meno attrezzati per la lotta. Nietzsche, Limonov e questa istanza in noi che io definisco il fascista dicono in coro: è la realtà, il mondo così com'è. Che altro dire? Quale potrebbe essere l'alternativa a questa ovvietà? Lo sappiamo benissimo, risponde il fascista. La pia menzogna, il buonismo di sinistra, il politicamente corretto, tutte cose più diffuse della lucidità. Io invece direi il cristianesimo. L'idea che nel regno, che non è certamente l'aldilà, ma la realtà della realtà, il più piccolo è il più grande. Oppure l'idea espressa in un sutra buddista che mi ha fatto conoscere il mio amico Hervé Clerc, secondo la quale l'uomo che si ritiene superiore, inferiore o anche uguale a un altro non capisce la realtà. Forse quest'idea ha senso soltanto nel quadro di una dottrina che considera l'io un'illusione e chi non vi aderisce potrebbe addurre mille controesempi. Tutto il nostro sistema di pensiero si fonda su una gerarchia di meriti, per cui il Mahatma Gandhi è una figura umana più elevata, diciamo, del pedofilo e assassino Martin Luther King. Scelgo di proposito un esempio incontrovertibile, poiché in molti casi sono discutibili, criteri variabili, e del resto gli stessi buddhisti insistono sulla necessità di distinguere nella condotta di vita l'uomo puro dal corrotto. Tuttavia, e benché io stesso stabilisca di continuo gerarchie del genere, e come Limonov non possa incontrare uno dei miei simili senza chiedermi più o meno consapevolmente se sono al di sopra o al di sotto di lui e sentirmi quindi sollevato o mortificato, penso che quest'idea, ripeto, l'uomo che si ritiene superiore, inferiore o anche uguale a un altro non capisce la realtà, rappresenti il vertice della saggezza. E non basti una vita a farsene permeare, ad assimilarla, a interiorizzarla in modo che cessi di essere un'idea e plasmi invece il nostro modo di vedere e di agire in ogni situazione. Scrivere questo libro rappresenta per me un modo bizzarro di lavorarci su. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.